Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10:08, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia il riposo del guerriero, il rotocalco domenicale che ogni settimana parla di un argomento, cerca così di sviscerare un argomento in un modo o nell'altro, cercando di coglierne le molte sfaccettature e le tante sfumature. Ma come sempre i numeri, gli sms, i vostri messaggi che oggi servono in modo particolare, anche per una cosa che vi spiegherò più tardi, 349-238-6666. E poi il numero verde, perché alle 11:30 giocheremo con il mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. E la settimana scorsa siamo riusciti anche a darvi proprio 1000 euro, per cui la possibilità c'è, insomma basta arrivare alla soluzione che come sempre può essere una delle notizie della settimana oppure un personaggio. Per arrivare alla soluzione avrete degli indizi musicali. Il numero verde per prenotarvi anche subito 800 24 00 24. Nella puntata di oggi del riposo del guerriero cercheremo di capire se valga o meno la pena di studiare, perché a quanto pare studiare non piace più tanto, ci sono altre cose, tanti interessi, tante cose da fare. Ma perché studiare se tanto poi a Sanremo ci arriviamo lo stesso? Da qui partiremo e da molti ospiti che ci diranno la loro, e cominciamo direi con una canzone che la dice tutta. Come il buio in un sorriso, noi cerchiamo una risposta, ma poi quando la troviamo scappiamo via. Come il cielo del mattino e lo sguardo di un bambino. Adulti di nascosto, ma che forse adulti non saremo mai. Era la colonna sonora anche del film Immature, Rex Britti, devo dire uno straordinario autore, anche cantante, oltre che chitarrista, insomma, che racconta un po' questo mondo e che noi cerchiamo di rivivere, nel senso che molti di noi, parlo degli ascoltatori, hanno già superato il momento degli esami, la scuola ormai è acqua passata, è qualcosa che ci siamo lasciati alle spalle e che magari è rivissuta, diventa un incubo, come forse racconta proprio il film Immaturi, no? Dopo, visto che i protagonisti vengono richiamati agli esami di maturità e hanno grande panico per questo, e li capisco, perché gli esami sono sempre qualcosa che non so, non sempre si ricorda con piacere, ma spesso la si ricorda con dolore. Io, per introdurre il primo ospite di oggi, con la quale vorrei proprio far partire la trasmissione, userei le sue parole. Ditemi se queste cose le devo ancora insegnare o no. Forse, se i ragazzi non sanno più l'italiano, vuol dire che la scuola non ha più ritenuto che fosse il caso di insegnare l'italiano. Forse tutti in Italia, o meglio in Europa, hanno deciso questo, che non è più utile insegnare la propria lingua, e si sono dimenticati di dirlo anche a me. E allora io sono l'ultima a fare una cosa che non interessa più nessuno, e quindi è bene che smetta. Questo libro è una battaglia, perché la cultura non abbandoni la nostra vita e prima di ogni altro luogo la nostra scuola, rendendo il futuro di tutti noi un deserto. È anche un atto di accusa alla mia generazione, che ha compiuto alcune scelte disastrose e non manifesta oggi il minimo pentimento. Infine, è la mia personale preghiera ai giovani, perché scelgano loro, in prima persona, la vita che vorranno, ignorando ogni pressione sociale e soprattutto familiare. E perché, in un mondo che li vezzeggia, li compatisce e ne alimenta ogni giorno il vittimismo, essi con un gesto coraggioso e rivoluzionario si riprendano la libertà di scegliere se studiare o no, sovvertendo tutti gli insopportabili luoghi comuni che da almeno 40 anni ci governano e ci opprimono. Paolo Mastrocola, buona giornata, buona domenica. Buongiorno a voi. Come si è risentita, Letta? Se mi fa sempre male sentire parole del genere. Ecco, in fondo sono le sue parole, però, perché sono già. La presentazione del libro Togliamo il disturbo, saggio sulla libertà di non studiare. Io non saprei da dove partire, ma così comincio da un punto, da qualche punto bisogna iniziare. Partirei dalla vergogna, che ormai non c'è più, la vergogna di non sapere. Allora, dunque io insegno, faccio lezione, do i compiti, le pagine da studiare, poi torno in classe e interrogo. Cos'altro dovrei fare? La scuola è ancora questo. Certo, quello è. Per quanto ce la contiamo del futuro, le innovazioni, le riforme, ma comunque questa è la scuola. Bene, quasi metà classe non apre un libro a casa, ma questo va bene. Il punto è che alla cattedra io ho i ragazzi interrogati, a volte non aprono bocca o comunque sbirciano sul libro con l'occhio storto, anzi neanche tanto di nascosto, proprio davanti a me che interrogo leggono parti del libro. Allora, e poi vanno a posto con loro 4, 5, così. Certo, perché tanto poi una piega. Sì. Tanto perché hanno già capito che il discorso è a due, no? Lei sa che loro non sanno e sì, va bene, è un patto, poi diciamo ce la così. Fanno, più o meno arrivano al diploma, più o meno si iscrivono all'università. Peccato che poi la maggioranza molla al primo anno, ma non importa, pare che a noi non importi, non lo so. Oppure arrivano al terzo anno, si prendono una laurea cosiddetta debole, giustamente, perché non vale più niente, e poi non trovano lavoro e noi ci stupiamo: oh, ma guarda che brutto mondo abbiamo costruito dove non trovano lavoro. Ecco, allora fermiamoci qui un attimo, Paola, perché vediamo chi l'ha costruito questo mondo, se qualcuno l'ha costruito. Gli aggiornamenti sul traffico e continuiamo a parlare. Il riposo del guerriero. Stiamo parlando di scuola e di studio con Paola Mastrocola. Allora, Paola, lei diceva nell'introduzione che ci sono stati anche degli errori nel passato, no? Parliamo della fine degli anni 60 fino ai giorni nostri. Possiamo individuarne qualcuno che lei ritiene possa essere stato un errore per l'insegnamento? Ma, sì, io nel libro indico alcune vie del passato che secondo me hanno iniziato questo lungo percorso che ha portato al non studio attuale. E partiamo negli anni 60, tra l'altro già in America, anzi in America, è una cosa non italiana questo sfascio. È globale come tutto ormai. Sì, sì. E anche l'America torna agli anni 60, anzi loro hanno cominciato dopo la guerra del Vietnam, sì. Quindi... Comunque, ecco, c'era l'idea giustissima di dare l'istruzione a tutti, era un'idea sacrosanta, solo che si è presa una via che io ritengo discutibile, cioè perché tutti avessero una istruzione il più alta possibile, la si è abbassata, cioè si è puntato al numero, cioè a una istruzione formale, al numero dei diplomati, dei laureati, e si è invece sacrificata la qualità dello studio. Ecco, quindi arriviamo anche a quello che fu il 6 politico, per esempio. Sì, certo, quelle sono le tremendezze più ovvie. Però si è cominciato proprio a non chiedere più tanto, cioè ad abbassare il tiro, sì. Ecco, a non sfidare più le menti dei giovani. Addio eccellenza. Sì, ma anche normalità, sa, perché io non è che adesso vorrei solo istruire gli eccellenti, io vorrei che dessimo una grande istruzione alta al maggior numero possibile, ma non potevamo non abbassare, capisci? Invece abbiamo detto, ad esempio, che le poesie del Foscolo erano difficili, che anche tutta questa storia non era il caso di farla, ma si poteva cominciare dalla storia dei propri nonni e basta. Adesso mi dicono che la geografia attualmente nelle scuole elementari non si fa più con le cartine facendo vedere dove sono i fiumi e le città, ma si dice ai bambini: andate nella vostra camera, guardate lo spazio, descrivete dove è il nord, dove è il sud, dove è il dietro, dove è il davanti. Ma siamo impazziti? Beh, quantomeno devono usare una bussola per scoprire dove sono i punti cardinali, sarebbe già qualcosa. E quindi una scuola che è cambiata, sta cambiando, adesso appunto una scuola dove non si studia studia più, però adesso mi domando. Non è colpa solo della scuola, no, certo. Vorrei dire che ci sono anche le famiglie che vogliono questo. Ma indubbiamente, perché forse da lì bisogna partire, anche capire perché è importante studiare, però forse non, lo si capisce un po' più tardi, no? Quanto è importante. Io mi ricordo personalmente, io ho fatto il liceo e durante il liceo stavo attentissimo in classe per cercare di non studiare a casa poi, perché avevo mille altri interessi. Però la chiave era stare molto attento in classe, invece i molti interessi di oggi, poi magari vedremo quali possono essere, non coincidono più con l'attenzione in classe, dove invece c'è molta disattenzione. Ma guardi, diciamoci una cosa, la scuola, lo studio è una cosa innaturale nella vita di ognuno di noi. Non è mai piaciuto a nessuno. Ma insomma, no, pochi, non è mai piaciuto a nessuno. C'è un'idea di costrizione, certo. Per forza, io torno a casa, vorrei fare 90.000 cose diverse, oggi come anche 40 anni fa, ci sono gli amici, c'era la televisione anche se poca, c'erano i libri, tra l'altro ecco, una volta i libri distraevano dalla scuola e a noi veniva vietato leggere. Adesso pazzesco, magari qualcuno li leggesse, sarebbe bello. sì. Comunque ci vorrebbe in realtà una società che crede ancora nello studio, nella scuola, e un pochino obbliga i ragazzi a fare una cosa innaturale. Ecco, invece no. Ecco, non è così, anche perché gli esempi sono questi, per esempio. Quando mi hai chiesto per la prima volta di presentare il festival insieme a te, ho pensato due cose immediatamente. La prima è stata la mia professoressa di filosofia, perché io a scuola ero un asino, non studiavo mai, e lei ogni volta che mi interrogava mi prendeva in giro, io volevo fare l'attore da ragazzino, mi diceva venga Bizzarri alla lavagna che voglio fare l'attore. Ecco, volevo dire alla mia professoressa di filosofia che sto presentando il Festival di Sanremo. Ecco, ovazione, Luca Bizzarri a Sanremo, io ero un asino però sono qua, e questo è il messaggio che passa. Dunque sì, io l'ho visto in TV, io tra l'altro lo adoro Luca Bizzarri, e ho detto ma no, cioè io capisco il messaggio, certo. È molto giusto anche. Sì, ma lo si può capire solo a un perché poi viene interpretato in modo diverso. È ovvio che la scuola non ci capisce. Chissà cosa diventeremo di meraviglioso, invece la scuola ci ferma sul 4 di grammatica perché non troviamo il soggetto. Però vorrei dire, ma la scuola ha questo scopo molto umile e semplice, cioè di insegnarti delle cose spesso noiose, ma in vista proprio del fatto che tu da grande trovi te stesso, diventi quello che vuoi, non è in contrapposizione, quindi ha fatto male Bizzarri a fare quel gestaccio alla sua professoressa, perché lei stava facendo il suo dovere, ma non voleva dire che lui era un cretino. E invece questo è quello che passa, no? Che anche non preparandosi alla fine si può arrivare lì, perché invece non si vuole leggere che c'è un percorso personale, che sì, è quello certo. Che deve passare, perché senza il percorso personale e le proprie capacità, e infatti nel suo libro si parla proprio di talenti, perché esistono anche queste, il talento può essere anche quello di non studiare ma di fare altro, di diventare un bravo calzolaio, faccio un esempio. Secondo me ecco. Sì, è una sfida questa, una provocazione, ma noi abbiamo perso proprio il senso della verità delle cose e delle persone. Noi obblighiamo tutti a fare un liceo molto spesso per una specie di così senso sociale di prestigio, ma non è detto che un ragazzo voglia studiare Kant. Lo può fare fino a una certa età, fino a una scuola dell'obbligo di altissimo livello, e poi che sia libero di trovare quello che la sua natura lo porta a fare, anche perché la società ha bisogno di tanti talenti, non solo di uno. Sicuramente, ecco, poi Paola Mastrocora nel libro racconta molto, spiega, va anche un po' controcorrente, forse anche contro molti insegnanti, e chiude poi il libro con una proposta, quella delle tre scuole, una proposta così semplice sulla carta. Già. Peccato che la vedo lontanissima. Comunque. Vogliamo dire quali sono le sì, tre scuole? Cioè, allora, io smantellerei questa scuola che abbiamo, che è uniforme e grigia come un pantano. Io l'ho chiamata scuola pantano. Sa, quei piatti laghi paludosi, sì. Dove ecco, basta. Facciamo, distinguiamo le cose, chiariamo la scuola, facciamone tre intanto scuole, molto chiare. Io l'ho chiamata una la scuola del lavoro, cioè di quelli che vogliono provarsi a fare dei lavori manuali e tecnici. Le faccio un esempio: un falegname o un tecnico del computer, sai, di quelle persone meravigliose che arrivano nelle nostre case quando il computer ci è morto e noi vorremmo proprio disperarci e loro tac tac sì, lo mettono a posto. Li conosco molto bene. Sono grandi professionisti, eh? Tra l'altro strapagati giustamente, per cui vabbè. Quindi avrei dovuto fare un altro mestiere, lei mi sta dicendo, devo dedicarmi al condono, perché è una mia grande passione, per questo spesso mi trovo a mettere a posto i PC degli amici, ecco, per ecco. Questo lo dicevo, però insomma è solo un hobby, andiamo avanti. Sì. All'opposto, io l'ho chiamata la scuola della conoscenza, per quel mettiamo 10-20% dei giovani che sono nati fissati sullo studio astratto, tipo algebra pura, filosofia, letteratura, queste cose così inutili, no? Che noi oggi disprezziamo così tanto, però ci sono ragazzi che hanno voglia di fare queste cose, gliele vogliamo far fare bene, cioè con una grande scuola dove si fa latino, greco, matematica, a tutto spiano proprio, no? E poi c'è una scuola mediana che ho chiamato la scuola della comunicazione. Sì. Per i giovani un pochino più, vogliamo chiamarli moderni, estroversi, tecnologici, quelli che ci credono nella tecnologia proprio spinta, che vogliono connettersi sempre. Non dobbiamo demonizzare, secondo me, neanche questi, perché no? Allora, facciamogli una scuola così iperconnessa, ipertecnologica, che punti alla socializzazione, al lavoro di gruppo, tutto quello che stiamo predicando, ma che sia solo una delle tre scuole, non che tutti dobbiamo lavorare con la lavagna interattiva. Lasciamo anche che qualcuno abbia così la follia di stare per ore, per mesi su un testo di Galileo Galilei. Certo, io tra l'altro insomma con questo augurio, quello di riuscire a creare queste tre scuole, anche se io personalmente la vedo dura, la volevo lasciare con un messaggio di Paolo da Milano che scrive perché studiare? È molto semplice, secondo lui dice perché è uno scopo della vita in sé, indipendentemente dai risultati pratici in termini di profitto economico, ed è vero che è così, ma il problema è che bisogna capirlo. Che lo scopo della vita può essere quello di studiare. Sì, però non possiamo più essere noi insegnanti ogni giorno a entrare in classe e a obbligare, a dire guardate che studiare è bello. Cioè o ci arrivi oppure veramente ognuno faccia la sua vita. Certo. Paola, per chiudere, visto che lei ormai è stata ospite in molte trasmissioni per raccontare del suo libro, ma perché l'argomento credo sia particolarmente affascinante, i suoi studenti che cosa dicono adesso? O come si comportano? Se non se lo aspettavano, però devo dire che sono le cose che io con loro dico tutti i giorni, quindi non dovrebbero essere così stupiti, ecco. E magari qualcuno si ritrova anche descritto nel libro, perché c'è una bella... Peccato di no, eh. Però insomma, quando nel gruppo poi qualcuno ci deve essere per forza, visto che vengono descritti anche questi. Grazie ancora. Grazie Paola Mastrocola, anche per quello che ha scritto e quello che fa per la scuola insieme a lei e tutti i suoi colleghi. Buona domenica. Grazie anche a voi. Paola Mastrocola, Togliamo il disturbo, saggio sulla libertà di non studiare. Il riposo del guerriero. Arrivano molti messaggi al 349-238-6666, lo studio, studiare è ancora importante, se sì come, addirittura chi vorrebbe distogliere i ragazzi da Facebook e dal bighellonaggio, anche con sistemi abbastanza drastici, ma in realtà Facebook fa parte della vita di oggi, quindi in realtà al posto di distoglierli andrebbe insegnato loro come utilizzarlo, no? Perché sia uno strumento utile di crescita al posto che solo di bighellonaggio, come Beppe per esempio scrive, ed è quello che anche la Mastrocola prima diceva. Certo che le cose possono essere raccontate anche in questo modo. Quando si ama, quando si sente la bandiera, quelle cose, ci si accorge che non è una cosa effimera, è una cosa eterna. chi sente questo, come sentivano i nostri patrioti, sente che non vive per il carpe diem, per quelle cose, che sono cose tristissime, no, vive un attimo eterno, per sempre, lo sentivano e non li poteva fermare nessuno, ed erano persone mirabili, Cavour, Mazzini, Garibaldi, tutti e tre entrati in politica e usciti dalla politica più poveri di quando erano entrati, ma hanno arricchito gli italiani enormemente, enormemente, una cosa memorabile. Una cosa memorabile. Queste sono figure. Allora noi diciamo, guardate che volevo dire, un paese che non proclama forte i propri valori con forza è pronto per l'oppressione e la servitù, eh? Se non ci si ricorda del nostro passato, non si sa neanche dove si va, cioè non si capisce da dove si viene. Queste sono cose, poi sono i nostri nonni, eh? E ieri l'altro che è accaduto, nessuno ha scritto dei grandi libri a favore del Risorgimento, ha fatto delle grandi opere, chissà perché. Straordinario l'intervento di Benigni a Sanremo, indubbiamente, però certo mica i professori possono essere tutti così, riuscire a raccontare le cose in questo modo. Francesca Dragotto, ciao. Ciao, buongiorno. Buona domenica alla il nostro ricercatore, dovrei dire ricercatrice, ma anche qui ne abbiamo già discusso, nel settore glottologia linguistica all'Università di Roma Tor Vergata. Allora, Francesca, noi partiamo dallo studio, dalla parola, perché forse da lì bisogna sempre partire per capire dove andiamo. Innanzitutto mi ricollego a quanto appena detto dalla professoressa Mastrocola, il cui libro si intitola Togliamo il disturbo. Io ci metterei un punto interrogativo: togliamo il disturbo? Beh, no, non direi, però per fare in modo di non essere percepiti così dobbiamo senz'altro lavorare. Parto da noi che operiamo nell'ambito dell'istruzione. Io insegno alle matricole del primo anno di scienze della comunicazione, per cui in qualche modo da più di 10 anni recepisco il prodotto delle scuole, un prodotto che sinceramente è cambiato, ma ciò non significa che si debba rinunciare a lavorarci. Certo, infatti lei era provocatoria in questo, ovviamente. Francesca, scusa, così una parentesi, ma tu com'eri a scuola prima, nel liceo per esempio? Io ero una grande appassionata. Era una secchiona, o c'erano delle materie che proprio erano tutti 4 e 3 che fioccavano? No, ero tendenzialmente una secchiona, ma ecco, peggio ancora, ero proprio una appassionata, almeno di certi ambiti di conoscenza. Ma quello bisogna essere, perché è diverso, essere appassionati e secchioni è diverso. Ma passavi i compiti agli altri oppure li tenevi per te, così per capirti da quel punto di vista? Non c'era una ratio. No, dipendeva dal tipo di compito, dipendeva da chi erano i compagni. Ok, facevi una scelta, però insomma sì, eri disponibile a farlo. Sì. Andiamo avanti, scusa, torniamo ai giorni d'oggi. Sì, e dicevi giustamente, recuperiamo la parola, perché probabilmente quello che si è perso è il significato originario. L'italiano conosce la parola studio fin dalle sue origini. Ha formato il verbo studiare a partire da studium, o meglio a partire da studio, che è l'esito di studium del latino. Il verbo studiare invece è un verbo italiano, non latino, perché il latino sarebbe studere e quindi in italiano avrebbe lasciato un verbo in ere. Però al di là di quella che è la forma, la morfologia, quello che mi interessa, quello che mi preme sottolineare è che il significato originario di studium è passione, assiduità, applicazione, certo, pratica, dedizione profonda, desiderio. E quindi desiderio di imparare, una spinta verso la conoscenza, un qualcosa che però deve essere animato da un afflato interiore che non può essere ridotto a meccanicismo. Ecco, quindi questa passione da dove può arrivare, Francesca? Perché poi è quella la chiave di tutto, no? Cioè la passione ti arriva, per esempio, semplicemente perché ce l'hai, e ce l'hai, non te la può spiegare nessuno, oppure perché sono i genitori che te la fanno capire, te la fanno arrivare. E poi sentiremo un ospite, per esempio, che racconterà di quanti libri lei ha letto, perché semplicemente si ritrovava vicini e quindi ha cominciato leggendo. E perché forse da qualche parte deve arrivare questa passione, o no? Accettare questa visione ci porterebbe a una dicotomia molto netta tra quelli che hanno accesso al sapere, che quindi hanno più possibilità di sviluppare passione per il sapere perché se la trovano a portata di mano. Sì. E questa è la ragione a cui poi molti si attaccano per spiegare al mondo esterno perché è normale che il figlio di un medico faccia il medico, il figlio di un insegnante faccia l'insegnante, il figlio di un notaio faccia un notaio. Però questa è una è una spiegazione piuttosto facile e destinata ad appagare una curiosità di massa. La ragione forse è più profonda, anche perché la passione può nascere da una lettura fatta casualmente, non necessariamente da una... Sicuramente! Per cui non... Chi si trova a contatto fin dall'età più piccola con libri, o comunque io parlerei più in generale di linguaggi. Certo, esiste anche internet, il web per esempio è uno stimolo continuo. Ma certo, ma perché demonizzare le nuove tecnologie? Mai. Anzi, la scuola, l'università stessa dovrebbe ricodificare il proprio modo di insegnare, non mettendo più i paraocchi nei confronti delle nuove tecnologie, ma anzi facendole proprie, perché si tratta di acquisire un mezzo per magari continuare a veicolare gli stessi contenuti. Certo, ma qui allora però si ritorna ancora agli insegnanti, che se svolgono il lavoro senza sufficiente passione non riescono a trasmetterla agli allievi, ecco, questo si dice, no? Questo in parte purtroppo è vero. Perché la genesi, tutto ciò che ha portato ciascuno di noi ad insegnare, naturalmente non può essere ricondotta ad un modello unico, quindi necessariamente poi incide nel risultato che riusciamo ad ottenere l'atteggiamento intimo e profondo che noi stessi abbiamo nei confronti del sapere che cerchiamo di trasmettere. Quindi se noi stessi crediamo che esistano saperi di serie A e saperi di serie B, come potrà non arrivare ai nostri studenti l'idea dell'esistenza di saperi deboli versus saperi forti? Io contesto molto, lavorando in una facoltà di lettere, contesto molto questa spaccatura netta, che non rende giustizia poi a dei saperi che non solo sono millenari, ma che hanno anche una metodologia forte e rigorosa paragonabile a quella delle scienze cosiddette forti. Infatti questo è quello che diceva anche la Mastro Colla, dicendo ci sono dei talenti e il sapere può essere anche saper fare bene il falegname, questo è comunque sapere, assolutamente va coltivato. Su questo mi trovo totalmente d'accordo, ma chi l'ha detto che un falegname non debba avere una cultura di base, certo, o una cultura nell'uso dei mezzi tecnologici? Infatti si diceva proprio questo, cioè fare in modo che il sapere serva a migliorare ancora di più il suo talento, no? Quella è la chiave. Francesca, il concetto è questo: tu sicuramente la passione ce l'hai e chissà quanti si specializzeranno in glottologia dopo averti ascoltato ogni volta che... No, ma è vero, perché comunque... Ammetto che capita spesso. Ma è così che funziona, quando senti qualcuno che in modo appassionato racconta qualcosa, come un bravo venditore, diciamolo francamente, sì, no? Quando un bravo venditore riesce ad farti appassionare a quello che sta per vendere, riesce anche nell'impresa, no? E si può anche, tra virgolette, vendere la cultura, cioè fare in modo che diventi qualcosa alla quale appassionarsi. Chissà se ce la faremo. Grazie Francesca. Grazie. Grazie a voi. Buona domenica, ciao. Vado avanti perché Maria dice: credo che Bizzarri, si riferisce a Luca Bizzarri a Sanremo, ce l'avesse con gli insegnanti che umiliano le aspettative, e ce ne sono tanti. È detto da una laureata che ha fatto il classico e che crede nell'istruzione anche come caccia al talento, ma sempre nel rispetto delle persone. Maria, è verissimo quello che scrivi, almeno io sono assolutamente d'accordo con te. Sta di fatto che dipende da come viene letto il messaggio, quindi dipende da quello che c'è alle spalle per capire il significato. Per molti invece è stato travisato, e questo è il problema, che le cose andrebbero spiegate. O ancora Cristina, che aggiunge: la scuola professionale mi ha dato un mestiere che svolgo da 25 anni, la voglia di crescere non mi ha mai fatto finire di studiare e confrontarsi. Quindi appunto anche qui il pratico, il mestiere del fare, il sapere del fare. Parliamo ancora di sapere con un grande successo. Signora Michela De Paoli, per 1 milione di euro, mi dica, secondo la Genesi, quale fu la prima azione compiuta da Adamo uscito dal paradiso terrestre? No, io mi arrendo, mi tengo i 300.000. Va bene, proviamo. Sì. 1 milione. Allora, Michela De Paoli, buona domenica. Domenica. Eccoci qua. Lei deve sapere che io non guardo, io guardo pochissima televisione. Mi hanno però telefonato prima di quella puntata per dire che c'era lei. Mi ha detto devi guardarla assolutamente perché forse vincerà 1 milione. Allora io molto incuriosito ho visto quel momento. E intanto grazie per aver accettato di fare una chiacchierata con noi e così l'ho conosciuta, nel senso che come tantissimi italiani l'ho conosciuta in quel preciso istante, ovviamente. A parte i complimenti per la vittoria, io torno invece a quello che qualche giorno dopo arrivò al Corriere della Sera, alla sua lettera, una lettera particolarmente interessante perché racconta le cose come stanno. Lei, diciamo subito, è laureata in lingue, dico bene? Sì. Ecco, e conosce inglese e tedesco, anche francese e spagnolo, sì. E ha letto molti libri, e ha cominciato così, leggendo i libri. Sì, perché sono cresciuta in una casa dove ce n'erano molti, perché anche mio papà è sempre stato un appassionato lettore, quindi per me i libri sono sempre stati una cosa naturale. Ecco, quindi lei ha cominciato a leggere, ad appassionarsi, come si diceva prima, visto che a quanto pare tutto è mosso dalla passione, sì. Ed è arrivata poi a cercare, come tutti, un lavoro, un mestiere, che però non ha trovato. Sì, io un lavoro l'avevo fino alla fine del 2007, poi sono rimasta a casa a causa della crisi. Come molti purtroppo, e però non si va avanti. Lei nella lettera al Corriere della Sera scrive a un certo punto: è piuttosto un paese culturalmente allo sbando, si parla dell'Italia, dove sì. Quasi tutti pensano solo ad apparire, dove l'apparenza conta più dell'intelligenza, come anche recenti vicende, stando almeno a quel che ne scrivono i giornali, sembrerebbero dimostrare. Quindi siamo nella società dell'apparire e basta, ancora una volta, Michela. Ma adesso io non volevo parlare più di questo argomento che è un po' trito e ritrito. Sì. Ma? Io ho ascoltato pochi minuti fa l'intervento della professoressa Mastrocola, sì. E ho riflettuto su questo. Benissimo. Dunque, io volevo dire che bisogna distinguere fra lo studio inteso come preparazione per una professione e lo studio inteso come arricchimento personale. E questa è una cosa che secondo me bisogna far capire ai ragazzi che vanno a scuola adesso. Ecco, ma c'è un modo per farglielo capire, Paoli, secondo Dunque, lei? Dunque, ecco. Allora, se parliamo di studio inteso come scelta di una professione, i genitori devono smetterla con l'idea che le professioni laureate sono di prestigio e le professioni con meno istruzione sono meno di prestigio. Se un ragazzo vuole fare il medico o il parrucchiere, l'avvocato o il cuoco, deve essere una scelta solo sua, deve seguire le proprie inclinazioni, non dare retta alla famiglia o al desiderio di guadagnare. Infatti proprio la Mastrocola nel suo libro c'è proprio un capitolo dedicato a questo, dove si dice che non si va più a scuola per fare, ma per essere qualcuno. Quindi semplicemente per poter dire io vado, io ti mostro come sono vestito, che cos'ho, è semplicemente il luogo per mostrare. Non è più il luogo per crescere, questo è diventato il punto. Sì, ecco, dicevo poco fa bisogna distinguere fra lo studio come preparazione per una professione e come arricchimento personale. Ecco, se invece parliamo dello studio come arricchimento personale, secondo me vale sempre la pena di studiare, dove proprio studio non intendo solo l'istruzione formale. Certo, ma anche... tutte le attività che possono trasmetterci qualcosa, come leggere buoni libri, andare ai concerti, alle mostre d'arte, viaggiare. Ecco, io ho letto poi comunque sui giornali che lei avrebbe trovato un lavoro, invece poi questo non è ancora successo. Quindi lei ancora sta cercando un lavoro, malgrado sì, la vittoria. Esatto. Però insomma, la vittoria sarà uno strumento per farsi conoscere a questo sì. punto. Ma è servito a qualcosa da questo punto di vista? La stanno cercando in questo senso? Beh, finora no, ho avuto pochissime proposte, ho fatto un paio di colloqui ma senza seguito. Ma come mai? C'è un motivo, Michela? Non lo me? So, io sinceramente me lo chiedo anch'io. Perché bisogna capire, in fondo, visto che se proprio la vogliamo dire tutta, la televisione spesso è quella che dà poi il là, no? Perché ci si vede, le persone si conoscono, ci sono le interviste, le chiacchiere, si parla di sé, lei ha parlato molto di lei, ha raccontato, eppure tutto questo alla fine non ha portato concretamente a toglierla dalla sua casalinghità, come chiama. Casalinghitudine. Esatto, come chiama questo essere costretti, diciamo così, a stare a casa dove invece vorrebbe lavorare. Non lo so, forse le persone che potrebbero offrirmi ciò che desidero non guardano la televisione. Ho però non leggono neanche i giornali a questo punto, perché molti potrebbero pensare, ma adesso che ha vinto 1 milione di euro è proprio il momento in cui non bisogna più lavorare, ma forse infatti, ho fatto anch'io questa riflessione, ma io voglio dire che non è una questione di soldi, è una questione di soddisfazione personale. Certo, io poi credo con tutta onestà, lo dico sinceramente perché farei la stessa cosa, anche dopo aver vinto una grossa somma, se non ci si sente appagati da un punto di vista personale, e in questo caso è proprio il lavoro, non ci si gode neanche quei soldi, insomma, credo che funzioni così, ecco, per cui deve arrivare anche quello, altrimenti è quasi come non averli vinti, almeno io la penso così, e forse lei nello stesso modo. Senta, prima di lasciarla e salutarla e ancora una volta complimentarla e ringraziandola, lei che cosa vorrebbe fare se potesse esprimere un desiderio dal punto di vista del mestiere? Dunque, io mi accontenterei anche di un posto di segretaria, però il mio sogno sarebbe lavorare o nel turismo o nell'organizzazione di eventi. Comunque, vabbè, anche con un posto di segretaria potrei soddisfare il desiderio di organizzare eventi, perché ci sarebbe da organizzare magari i meeting aziendali, i viaggi per qualcuno dell'azienda che deve partire. Ecco, per cui insomma è anche chiaro quello che vorrebbe fare. Io, se avessi una società che si possa occupare di questo, la chiamerei sicuramente per un colloquio. Speriamo che qualcuno faccia altrettanto. Grazie Michela De Paoli, bene, davvero. Buona domenica. Grazie. Speriamo che vada così in questo 2011. Io penso di sì, così. È una speranza e anche un presentimento. Le 10:48, un po' in ritardo, mi scuso, gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Piace come siete attivi davvero oggi, moltissimi messaggi. Uno scrive: memoria e intelligenza non sono la stessa cosa, sicuramente. Qui penso si riferisse proprio alla nostra Michela De Paoli, perché rispondere a un quiz ovviamente richiede memoria, l'intelligenza invece è un'altra cosa. Però insomma, io non metto assolutamente in dubbio che Michela De Paoli sia una persona assolutamente intelligente. E poi aggiunge: un corso di dizione, magari, non ho capito a chi è rivolto, non so se fosse rivolto a me oppure rivolto alla Dragotto, perché molto spesso a Francesca Dragotto, che ha questo accento romanesco, allora a lei viene così sempre detto: ma la dizione dove la mettiamo? Ma quella è un'altra cosa. Io ho visto e conosco anche pessimi attori con un'ottima dizione. La dizione non fa l'attore. Alberto Sordi è un esempio per tutti, per cui basta con questa storia della dizione, la dizione, la dizione, perché la dizione serve indubbiamente, ma io sono più per l'inflessione, cioè magari chi fa un mestiere come appunto parlare in una radio o recitare, quando non serve cercare di togliere l'inflessione dialettale, quello sì, può essere un percorso. Però insomma, se uno dice telefono al posto di telefono, come qualche volta capita di dire, e a me è capitato spesso di sbagliare in questo senso, non credo che cambi veramente qualcosa. Sono stato ripreso da voi ascoltatori per questo, perché io per ben due volte ho osato dire telefono al posto di telefono. Giuseppe Patota, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Giuseppe Patota è professore ordinario all'Università di Siena e Arezzo, direttore scientifico dizionario italiano Garzanti, ed è autore anche di un libro, che è quello del quale stiamo per parlare, che è Viva il congiuntivo, come e quando usarlo senza sbagliare. Innanzitutto, Giuseppe, io voglio chiedere cosa pensa della dizione. Ma intanto le posso dire che nel dizionario che dirigo, nel dizionario Garzanti, abbiamo segnalato in modo facile la pronuncia corretta secondo la norma dell'italiano, di tutte le parole. Sì. Fatta perché il dizionario deve offrire questi servizi. Certo, se no non si chiamerebbe dizionario, si chiamerebbe vocabolario, che è un'altra cosa. Fatta questa premessa, naturalmente, come al solito i linguisti sono molto più indulgenti di quanto non siano poi i parlanti magari colti, nel senso che io sono abbastanza vicino alla sua posizione, in questa direzione: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Eccolo là, gli ascoltatori che rimproverano a questo o a quel intrattenitore radiofonico una cattiva pronuncia e parlano di dizione, lo fanno pensando alla loro, ma la loro è a loro volta connotata dal punto di vista regionale. Sicuramente. La verità è che non esiste un solo italiano corretto, ne esistono molti di corretti, indipendentemente dalla differenziazione regionale. Ne possono anche esistere molti scorretti, ma questo non dipende sicuramente dalla dizione. Ecco, quindi, dizione a parte, parliamo di congiuntivo. Esistono... Guardi, prima, mentre la sentivo, sì, lei ne ha inanellati una decina in modo perfetto, quindi le posso fare i complimenti. La ringrazio, ma perché io sono un po' un fanatico, devo dire la verità. E anche, devo dire, la signora che veniva intervistata prima usava perfettamente anche i condizionali. La Dragotta sicuramente, certo. Questo congiuntivo non è affatto morto, come dice qualcuno che insomma porta un po' male all'italiano. Professore, guardi, io le racconto un fatto, adesso voglio di raccontarlo, e infatti è una cosa che mi ha fatto molto soffrire. Io ho condotto per 10 anni le trasmissioni, molte trasmissioni dell'Italia 1, e durante una di queste io sbagliai un congiuntivo, stavamo registrando, io mi accorsi immediatamente dell'errore perché nella concitazione del momento sbagliai, e quindi chiesi di rifare tutto. In quel momento in regia, io non lo sapevo che la regia è spostata rispetto al teatro di Posa, passava la Jalapas Band, Marco della Jalapas Band, e ha sentito il mio congiuntivo sbagliato, ha pregato la regista di non farmi rifare, così è andato in onda il congiuntivo sbagliato. Io chiaramente, quando mi dissero dai Stefano tu non sbagli mai, che poi non è vero, però insomma mi dissero così, dai non stare lì a rifare, in realtà mi costrinsero a non rifare per poi riprendermi, e quella fu una cosa che mi uccise dal punto di vista proprio personale. Questo episodio è sintomatico di un atteggiamento. Il suo collega, insomma, il membro della Jalapa, sì, che cosa ha fatto? Ha toccato un punto dolente. Certo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire non è vero che il congiuntivo sia morto, non è vero che nessuno più lo usa, non è vero affatto. Perché allora facciamo tanto caso quando una persona sbaglia un congiuntivo, come è il caso che ha raccontato lei? Perché c'è una forte sensibilità nei confronti di questa improprietà. Insomma, un congiuntivo sbagliato fa alle orecchie degli utenti della lingua ben pensanti lo stesso effetto sgraziato che può fare un rutto in pubblico. Io mi scuso per... No, ma è chiarissimo, almeno siamo chiari. Ecco, i medici però nei confronti di simili reazioni possibili sono molto più indulgenti, perché sanno che possono dipendere dalle oscurità profonde dell'intestino, quindi anche i linguisti sono molto più indulgenti. Quindi la realtà è che il congiuntivo ci piace molto, ma ci spaventa anche tanto. Proprio questo, e noi abbiamo scritto viva il congiuntivo proprio per dimostrare A, che non è vero che è morto, B, che non è vero che sia così difficile adoperarlo. Ecco, allora cercheremo di scoprire come adoperarlo bene. Non so se ha notato che mentre parlavo, sì, io ho oscillato più volte nella stessa situazione fra indicativo e congiuntivo. Ma l'ha fatto anche Dante, adesso poi l'ho scoperto leggendo il suo libro, perché io prima onestamente non me ne sono mai accorto. Ecco. Allora io le chiederei di stare per cortesia con noi, perché adesso c'è il GR e poi continuiamo a parlare con Giuseppe Patota e cercheremo di capire come e quando usare il congiuntivo, e a perdonarci anche quando al suo posto usiamo l'indicativo. Il riposo del guerriero. Le 11:06, ancora buona domenica, da Stefano Gallarini continua il riposo del guerriero. Oggi parliamo dello studio e volevo ritornare, prima di continuare a parlare con uno dei nostri ospiti che è Giuseppe Patota, volevo ritornare sulla signora De Paoli, Michela De Paoli, che aveva vinto, che ha vinto 1 milione di euro a chi vuole essere milionario, appunto lei diceva non ha un mestiere. Io con lei discutevo del fatto che i soldi, anche se appunto sono tanti, è difficile goderseli nel momento in cui non ci si sente realizzati nella vita, cioè questo è il mio pensiero. Poi invece sono arrivati diversi messaggi che dicono in fondo questa è un'offesa per chi un mestiere lo sta cercando, non ha un lavoro, non ha soldi, e invece visto che lei ha vinto 1 milione di euro impari a goderseli e via, anche se non ha il lavoro fa niente, va bene, cioè è un altro punto, ognuno giustamente ha le sue opinioni. Io però sono convinto che quando non ci si sente realizzati per qualcosa di proprio non si riesce a godere quello che si ha. Io sono convinto di questo e rimane una mia convinzione, ma chiaramente rispetto tutte le vostre, fate benissimo anche esprimere. Giuseppe Patota, ancora buona domenica. Buongiorno. Allora, stiamo parlando di questo libro, Viva il congiuntivo, come quando usarlo senza sbagliare. Allora, lei cosa pensa di questo? Scusi, se le faccio poi domande che divagano un attimo, ma così, è d'accordo sul fatto o meno che quando non si è soddisfatti di sé non ci si riescono a godere anche i soldi? Sì, nel senso che se capitasse a me di vincere un milione di euro, l'ultima cosa che penserei di fare sarebbe quella di licenziarmi dal mio posto di professore, vorrei continuare a lavorare, la lingua italiana ai miei studenti di Arezzo. Bene, allora cerchiamo di insegnare il congiuntivo e di usarlo un po', però mi scusi, degli eccellenti prima di noi hanno sbagliato anche loro. È la cosa un po' che colpisce, anche qui però, torniamo a quello che dicevo prima. Io leggo Dante, Boccaccio. La cosa meno perdonabile è quando il congiuntivo lo sbagliano dei personaggi importanti. Adesso però qualcuno di loro, le assicuro, che si è fatto una specie di vaccinazione preventiva. Sì. Le posso dire per esempio che ho fatto caso, li ho anche appuntati questi casi naturalmente, quindi non parlo a vanvera ma parlo sulla base della documentazione, che la nostra ministra dell'istruzione Maria Stella Gelmini, per paura di sbagliare i congiuntivi e quindi di essere magari presa in giro proprio perché lei ministra dell'istruzione, certo, li adopera in più, cioè li adopera anche quando non servirebbero, ci sarebbe bisogno, certo, di adoperarli, ecco. Sì. Questo sì, se dopo ho tempo, se dopo avrò un momento di tempo, le farò anche proprio una citazione precisa a un certo punto in cui dopo magari la cerco e gliela dico. Va bene. Ho fatto questo. Quindi è vero che ci sono dei congiuntivi, ci sono degli uomini politici molto importanti che sbagliano i congiuntivi, ci sono delle situazioni un po' comiche. Una volta l'onorevole Casini, che peraltro parla in italiano eccellente, però ha sbagliato due congiuntivi in un discorso in cui parlava della necessità di riformare l'università, naturalmente nella direzione di una maggiore serietà e di una maggiore selezione. Senta Patota, ovviamente in questo contesto e fa ridere, lo so, però dobbiamo dire una cosa, è anche difficile districarsi perché ormai li sbagliano tutti, li sentiamo sbagliati nelle doppiaggio dei film, li sentiamo sbagliati nei telegiornali, li leggiamo sbagliati sui giornali, difficile ripescare, poi ritirare le fila e ricostruire tutto, diciamo la verità. Intanto guardi, molto spesso nei doppiaggi dei film non rappresentano una forma sbagliata, rappresentano un'altra cosa, certo, un tentativo di avvicinarsi a una lingua colloquiale. Ecco. Sì. Se vuole ho trovato la citazione che risale al 27 novembre del 2010. Eccola della lì, ministra Gelmini. Sentiamola. È veramente scandaloso, non è naturalmente discuto della forma, non del merito. Sì, eh? Sì, certo. È veramente scandaloso che ci siano italiani che, pur di dare addosso al presidente Berlusconi, facciano il tifo perché l'Italia crolli. Eh no, cara ministra, italiani che fanno, non che facciano, ecco, il tifo perché l'Italia crolli. Qui va bene l'indicativo presente, ecco. Allora, proprio su questo c'è un messaggio che scrive, sì, se mangio la pizza sto male, è una situazione reale. Se mangiassi la pizza starei male, situazione ipotetica. La prima è sbagliata in italiano, cioè se mangio la pizza sto male. No, è giustissimo. È correttissima, certo. È correttissima. Aggiungiamo, facciamo un altro caso, perché questo è interessante. si dice che la forma, se me lo dicevi venivo prima, sia scorretta e andrebbe sostituita col più corretto. Se me l'avessi detto, sarei venuto. Sarei venuto prima. Sì, Bene, nel nostro IVA il congiuntivo e anche in un libro che uscirà fra poco, uscirà fra un mese e si chiamerà sulla linea di IVA il congiuntivo, viva la grammatica naturalmente. La mia collega Valeria Della Valle e io abbiamo scoperto e segnalato che queste forme di periodo ipotetico dell'irrealtà col doppio indicativo comparivano pure in Ludovico Ariosto, e scusate se è poco. Quindi, insomma, se le hanno scritte, se le hanno adoperate i grandi della nostra letteratura, non si vede perché non le dobbiamo adoperare noi. Si tratta di forme che appartengono a un registro un po' più colloquiale. Più colloquiale non vuol dire scorretto. Ecco, ma allora abbiamo tutti ragione, nessuno sta sbagliando in realtà. Non è proprio così. Vede, farei questa differenza. L'italiano è una lingua che al suo interno ha delle regole e ha delle scelte. Io non posso dire i bambino sei simpatici, ecco, no. Questi vincoli naturalmente renderebbero impossibile la comunicazione in lingua italiana, ma la lingua italiana, a causa della sua storia stratificata, straordinariamente interessante, poliedrica, stratificata, fa sì che al suo interno ci siano non soltanto delle regole, delle leggi come quelle che le ho appena citato, no? Come a titolo d'esempio, ma anche delle scelte. Quindi in italiano non si è solo obbligati a fare qualcosa, ma si può scegliere, obbedire e ubbidire. Qual è la forma giusta? Ma sono giuste tutte e due. Fino a qualche tempo fa si poteva dire sia desiderio sia disiderio e non c'era una forma più corretta. Quindi questo non vuol dire che l'italiano sia il regno dell'anarchia. Ripeto, ci sono delle regole a cui dobbiamo per forza attenerci. Beh, è straordinario che... qualche caso, e questi sono proprio i punti deboli su cui abbiamo i nostri dubbi tutti quanti, c'è la possibilità di scelta. E che quindi, insomma, l'italiano ce la dà, ecco, ci sono lingue che non ci danno neanche quella. Quindi, ecco. Lei non immagina quante volte, dato il mestiere che faccio, mi capita che mi telefoni qualche amico che fa l'avvocato, il magistrato, il medico, e mi chiede, ma senti, si può dire così o si deve dire colà? In molti casi io devo rispondere, non perché sia un libertino della lingua, si può dire o scrivere in tutti e due i modi, e qualche volta ho perso degli amici perché mi hanno detto, ma come, proprio tu che per mestiere insegni storia della lingua italiana mi dici non mi dai la regola, non mi dai la legge? Ecco, un linguista non è uno che dà le leggi, è uno che racconta che lingua sta facendo in questo momento. Oh, meno male, adesso così in qualche modo mi sono redento nel fatto che anche il mio congiuntivo sbagliato in televisione può essere passato, non avrei dovuto soffrire così tanto. Adesso io non mi ricordo neanche io cosa dissi in quell'occasione. Ecco, altrimenti però, insomma, qui sembra che io vi abbia detto se potrei. No, non era, ecco, non era così, era una cosa più semplice. Questo non si può fare, naturalmente. Vabbè, allora cerchiamo di così di aiutare un po' più noi stessi e anche la nostra comunque lingua in questo 150esimo anno. Sia in viva il congiuntivo, sia in viva la grammatica, noi la cosa che facciamo è diamo poche regole, ma buone, per non sbagliare più. E che è fondamentale. Ecco, impariamo. Però sono poche, perché se poi diventano troppe, la gente giustamente non ci capisce più. Sì, nulla. Infatti già è complicato. Patota, ma ci risentiremo perché vorrei fare una puntata, la stavo preparando da tempo, proprio sul congiuntivo e su una serie di cose, per cui arriverà anche questa proprio in occasione del 150esimo anno dell'Unità d'Italia. Grazie ancora, professore. Grazie a lei. Buona domenica, grazie. Buona domenica. Sono tantissime le cose da raccontare, abbiamo anche molti ospiti ancora e non riusciremo a sentirli tutti, purtroppo. Intanto gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Intanto mi scuso con il dottor Mario Polito perché non riesco a intervistarlo questa volta, però faremo una puntata ancora sullo studio, ma magari appunto sul congiuntivo, sulle costruzioni, sulla nostra lingua, perché tutto ha a che fare anche con l'Unità d'Italia, indubbiamente. E Polito ha scritto diversi libri e uno di questi era proprio il metodo di studio, imparare a studiare, perché poi alla fine per studiare ci vuole un metodo, non c'è niente da fare. Una volta costruito un metodo è possibile anche studiare. Qualche minuto però lo voglio dedicare ad Amedeo Colella. Amedeo, buona domenica. Buongiorno Stefano. Eccomi qua. Allora, noi parliamo di un libro molto curioso, si chiama Manuale della Napoletanità. Perché sì. È fondamentale. Lei è un ricercatore, fra l'altro. Sì. e ha una... Sono ricerche, sì. No, dico, è una storia anche di studio piuttosto curiosa. Sì, dunque, io sono un ricercatore di un centro di ricerca promosso dalla Università Federico II, ma è un centro di ricerca informatico, quindi in realtà non c'entra nulla col contenuto del libro, se non magari per le metodologie che ho acquisito durante questi anni. Ecco, perché il metodo ancora una volta è fondamentale? Perché il manuale di napoletanità, cioè a chi è rivolto? Ai napoletani che devono capire cosa significano le parole che sentono tutti i giorni, o per chi non è napoletano e le vuole così comprendere? Guardi, è un ipotetico, è un libro rivolto a un ipotetico allievo che vuole diventare un buon napoletano. In 365 lezioni, quindi una al giorno, una sorta, però, come diceva lei prima, di invito all'approfondimento, perché naturalmente si tratta di brevi lezioni che esplorano i fondamenti, diciamo, della cultura napoletana, dei costumi, della napoletanità, appunto, e cercano di invitare, appunto, il lettore a un approfondimento. In un anno, con una lezione al giorno, io dico ne farò un buon napoletano, e questo è rivolto sia a noi napoletani, in qualche modo, noi gli abitanti della città più bella del mondo, che naturalmente in qualche modo ritroveremo nuovi spunti, nuovi stimoli in questo libro ad approfondire magari moltissimi argomenti, ma è rivolto in realtà a moltissimi italiani che oggi potrebbero ambire a diventare degli ottimi napoletani, perché la cultura napoletana, indipendentemente, diciamo, da ciò che sta avvenendo negli ultimi anni, che è sotto gli occhi di tutti e per la quale, insomma, non voglio negare assolutamente nulla, è una cultura che ha oltre 2000 anni di storia, e per cui con un po' di soddisfazione dico che un giudizio su questa città non può essere espresso solo guardando agli ultimi 100 anni di una storia che ha avuto sicuramente delle difficoltà, ma nei 2000 anni precedenti questa grande capitale ha prodotto in lingua napoletana le più grandi opere della poesia, della musica di tutto il mondo, ha prodotto la più grande gastronomia mondiale, ha prodotto, insomma, realmente il miglior cinema, il miglior teatro italiano anche, e questo con grande orgoglio, voglio dire, quindi vorrei in qualche modo riequilibrare, ecco, un giudizio che i mass media oggi stanno veicolando sicuramente pesante su questa città. Certo, poi magari la risentiremo, appunto, siccome stiamo preparando una puntata sul 150enario, la risentiremo anche perché, così, perché sarebbe anche divertente, ora non c'è tempo, ascoltare qualche termine e capirne il significato. Volevo chiudere con una domanda però, Colella, che è questa. È stato portato in TV, è stata portata il Filomena Marturano di Edoardo De Filippo, con Massimo Ranieri e Mariangela Melato, tradotto in italiano. Però lei ha trovato che fosse giusto, perché così era possibile comprendere una parte di tutti, oppure lei non l'avrebbe mai fatto? Guardi, io le confesso, non avrei fatto questa operazione. Le voglio raccontare un piccolissimo aneddoto. Sì. Edoardo De Filippo, quando girò la questione televisiva di Natale in casa Cupiello, no? E quindi dice delle frasi che sono rimaste, insomma, nel DNA di noi napoletani, ma di tutti gli italiani, certo. Questo caffè è una ciofeca, oppure su caffè da Piscarafuno, non so se lei si ricorda sì, questa frase. Ebbene, la frase del copione originale teatrale diceva su caffè sapi pimmes, lui già valutò che probabilmente nella versione televisiva nazionale molti italiani non avrebbero capito il significato di pimmes. Quindi c'era già un tentativo di renderlo, diciamo così, un po' più ma facile da comprendere. L'intero testo invece non l'avrebbe fatto. Però naturalmente non voglio ora fare delle chiste. Assolutamente, era solo una curiosità personale, poteva interessare credo anche gli ascoltatori, e comunque la risentiremo, perché così ci farà così non 365 lezioni, ma almeno qualche parola, magari tra le più difficili sicuramente vorremmo sentirne il significato. Io volevo solo dire agli ascoltatori che il libro è distribuito, ahimè, solo nella regione Campania, perché abbiamo valutato che in un primo tempo magari, però sto scoprendo che c'è un interesse nazionale. Io credo che sia più interessante per chi napoletano non è. L'unico modo oggi per reperirlo è sul sito dell'editore, Ateneapoli, che ha creduto in questa operazione e che oggi, insomma, lo promuove attraverso il proprio sito. Allora, manuale di napoletanità, Amedeo Colella, grazie, buona domenica, ci risentiremo. La ringrazio. Prima di Davide Paolini, allora io vi lascio per chiudere un po' l'argomento studio e Napoli con questo. Quale parabola preferisci? Svolgimento. Io la parabola che preferisco è la fine del mondo, perché non ho paura, in quanto che sarò già morto da un secolo. Dio separerà le capre dai pastori, una a destra e una a sinistra, al centro quelli che andranno in purgatorio. Saranno più di 1.000 miliardi, più dei cinesi. E Dio avrà 3 porte. Una grandissima, che è l'inferno. Una media, che è il purgatorio. E una strettissima, che è il paradiso. Poi Dio dirà: fate silenzio tutti quanti! E poi li dividerà. A uno qua e a un altro là. Qualcuno che vuole fare il furbo vuole mettersi di qua, ma Dio lo vede e gli dice: uè, a dove vai? Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno, il cielo scoppierà, Corzano si farà in 1.000 pezzi. I buoni rideranno e i cattivi piangeranno. Quelli del purgatorio un po' ridono e un po' piangono. I bambini del limbo diventeranno farfalle. Io? Speriamo che me la cavo. Insomma, una frase famosa, un film anche altrettanto famoso, era un po' per chiudere. Poi ci sono ascoltatori che dicono: quante banalità, insomma, e non si capisce mai di cosa poter parlare, perché oltre che intervistare le persone che hanno scritto libri, che conoscono le cose o che comunque così le hanno analizzate, e poter fare delle domande a loro è una bella opportunità, non si sa che cos'altro poter fare. Allora mi piacerebbe chiedere a chi scrive queste cose cosa avrebbe fatto al mio posto. Ma io quello che voglio fare anche a questo punto, prima di parlare con Davide Paolini, è regalarvi qualcosa, perché a Palazzo Reale c'è un'importante mostra antologica per un grande ritorno, quello di Alberto Savinio, un artista raffinato, un grande creatore, tra l'altro poliedrico e un intellettuale soprattutto indipendente. E l'assessorato alla cultura del Comune di Milano e 24 Ore Cultura presenta a Palazzo Reale proprio questa mostra fino al 12 giugno 2011. Tra l'altro la voce narrante è quella di Tony Servillo. Io voglio regalare 2 kit per voi. Ogni kit contiene 2 biglietti per la mostra e un catalogo. Vinceranno i primi 2 sms che arrivano al 349 238 6666. Quindi i vostri sms al 349 238 6666, per avere uno dei 2 kit. Ripeto che ogni kit contiene 2 biglietti per la mostra e un catalogo. Il gastronauta. Davide, buona domenica. Davide Paolini, il nostro gastronauta. Buona domenica a tutti. Parliamo anche della cultura del cibo a questo punto. Sì, cibo è cultura, è cultura materiale. La cultura materiale è una cultura con la C maiuscola, anche se qualche intellettuale con la I minuscola non ne vuol far parte del tavolo della cultura, o magari la respinge. È sicuramente cultura, cultura con la C maiuscola, lo ripeto. Sono assolutamente d'accordo. Colella prima diceva che da Napoli è partito tutto, anche la cucina. Tu cosa pensi? Bah, oddio, cioè, è partita la cucina. Sai, difendeva la sua napoletanità, ovviamente. Ma sì, credo che ognuno difenda la propria terra, il proprio territorio, e credo che sia giustissimo questo, anche se riconosco che la cultura materiale napoletana è sicuramente straordinaria, così pure la cultura della cucina napoletana è davvero di primo livello, quindi per carità, chapeau, però insomma ognuno credo che rivendichi un po' le origini della gastronomia. Potremmo tornare a cotto e crudo, potremmo tornare indietro di tantissimo tempo, potremmo tornare ad Apicius, quindi sicuramente, cioè, le origini sono molto ma molto lontane, sono molto più vicine le origini della nostra, diciamo, identità della tavola, questo sì, perché è talmente diversificata e variegata in questo paese che quando si parla di identità mi viene un po' da ridere, nel senso che noi abbiamo un'Italia delle cucine, non la cucina, quindi diciamo bisogna sempre usare il singolare, il plurale, scusami, e questo è un fatto secondo me di importante. Pochi hanno la diversità che abbiamo noi in questo paese. Se andiamo a verificare con tutto il mondo, probabilmente gli altri paesi hanno una cucina nazionale principale, noi non abbiamo una cucina nazionale, tant'è vero che, visto che si parla di cultura, lo straordinario scrittore, storico, sociologo, antropologo Piero Camporesi, quando scrisse la prefazione all'Artusi in un'edizione straordinaria dell'Einaudi, scrisse che l'Artusi non aveva promosso la cucina italiana, ma era stato il primo tentativo di unificazione delle lingue italiane. Quindi sicuramente questo è un fatto straordinario e positivo, per cui già diciamo questo scritto di Piero Camporesi fa capire, secondo me spiega appunto la nostra identità variegata, così come lo è la lingua, così lo è la cucina. Senti Davide, io facevo un po' un parallelismo, magari stupido, mi divertiva farlo, tra il congiuntivo, di cui abbiamo parlato prima, e le ricette, nel senso che esistono delle regole, cioè il pesto va fatto in un certo modo, piuttosto che il ragù, il vero ragù va fatto in un altro modo. Poi però esistono le contaminazioni regionali, cioè le ricette così hanno delle variazioni, no? Tu... Ma certo, ma innanzitutto a Napoli si chiama ragù. Sì. E c'è un libro di Edoardo De Filippo sulle ricette straordinario che racconta queste cose, sia come si fa il ragù che come si fa anche la passata di pomodoro, straordinario. Tu hai perfettamente ragione, ma la cucina è frutto di contaminazioni. Partiamo visto che si vuole andare indietro e si parla dell'origine, diceva Napoletana, di tutta la cucina. Non è così, perché se non arrivava il pomodoro, la patata o il mais da quelle famose caravelle, se è così, se è vero, dalla scoperta delle Americhe, probabilmente la nostra cucina cosa sarebbe stata? Specialmente quella napoletana, che è basata tutta sul pomodoro, e quindi sicuramente le contaminazioni sono importanti. Ma guarda, voglio raccontare un aneddoto a cui tengo molto. Io ho cominciato a scrivere di cibo su una rivista che si chiamava La Nuova Cucina. Guarda, il direttore era Ugo Tognazzi, e Tognazzi in una di queste riunioni mi disse: tu devi fare un pezzo per spiegare cos'è, diciamo, la cultura del cibo, e lo devi spiegare partendo dal raviolo, dal tortello. Se tu parti dalla Sicilia, arrivi in Piemonte e vedi che pian piano questo tortello parte povero e arriva ricco con i plini con le tre carni dentro, tra l'altro. Con le carni, sì, quindi sì. Parte con ricotta e verdure, lentamente diventa più ricco. Lui dice: così spiegherai la storia dell'Italia. Ecco, credo che questa sia una verità straordinaria e che possa illuminare molto su quello che è stato il percorso, su quelle che sono le contaminazioni. Sei stato chiarissimo, Davide. Fra l'altro, proprio nella puntata del Riposo del Guerriero, dedicata al 150esimo che stiamo preparando, daremo ampio spazio anche proprio a questo momento, molto più ampio di adesso, per parlare proprio di questo. Quello è un bellissimo punto di partenza, per parlare. No, volevo aggiungere appunto, sì, il congiuntivo, no? D'altro, sì. Che quando io ho iniziato a scrivere sul Sole 24 Ore con quell'occhiello del mio pezzo che era "A me mi piace", sì. E io, diciamo, il responsabile della pagina, allora lo facemmo giocando sulla sgrammaticatura, cioè doveva essere una sgrammaticatura, certo, così come i miei pezzi. Bene, recentemente, 2 anni fa, ho letto sulla Repubblica un articolo di un noto linguista, il quale diceva che "A me mi piace" non è assolutamente un errore. E quindi può essere un rafforzativo, e quindi si può anche mettere. C'è anche un'evoluzione sicuramente della lingua, non è così ferma, non è così immobile. Ah, ma i linguisti sono i primi ad ammetterlo, siamo forse noi che ne abbiamo paura. Grazie Davide, grazie. Alla prossima. Buona alla domenica, prossima. Grazie. Ciao. Così come abbiamo magari paura di così fare una ricetta sbagliata, come non andrebbe fatta, invece le contaminazioni e i tentativi, gli esperimenti sono sempre i benvenuti. Anche voi lo siete, i kit li abbiamo già dati, sono arrivati tanti sms, quindi non mandateli più perché ormai li abbiamo già assegnati, e tra poco invece ci sono 1000 euro per voi. Il riposo del guerriero. Grazie agli ascoltatori che stanno continuando. Scusate, rido perché oggi, credetemi, la puntata è... A parte che qui ho 5 milioni di fogli, libri, cose, appunti. Poi anche io mi perdo perché alla fine 11:35 minuti. Dai, cominciamo col mistero. Un mistero in 24 minuti. La prossima puntata sarà sull'aria fritta, così almeno allora voi dovete cercare di risolvere il mistero ascoltando gli indizi musicali che vi proporrò. Per voi ci sono 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Oh, ma la settimana scorsa siamo riusciti a consegnare i 1000 euro, per cui speriamo di riuscirci anche questa volta, ovviamente. E la risposta può essere una notizia della settimana oppure un personaggio, insomma, o qualcosa di conosciuto, ecco. cosa stavo pensando. Scusate, perché sono preso dalla lettura, continuano ad arrivare messaggi e quindi mi sono distratto un attimo. Volevo anche dire che nella puntata di oggi dovevo stare attentissimo alle cose da comunicare, alla costruzione della frase, perché mai avrei voluto sbagliare. Ok, ce l'ho fatta. Il numero verde 800 24 00 24, e questo è il primo indizio. Giacomo da Ferrara, il primo. Ciao, buona domenica, Giacomo. Ciao, buona domenica, Stefano. Ne hai fatta di strada? Sì, dai, io sono poi originario di Pisa, quindi ora vivo a Ferrara, quindi un po' di strada l'ho fatta. Ti sei spostato. Allora, Giacomo, questo è il primo indizio, abbiamo 1.000 euro. Che cosa vuoi fare? Ma io provo a dare la risposta, mi butto. Tu dici, hanno vinto la settimana scorsa, magari anche stavolta. Esatto. Vai. Ma in verità è una notizia molto piccola, quindi non so se è quella. Però io, pensando alla strada, ho collegato a persone che vivono in strada. Sì. Ed è una notizia che ho sentito anche in una delle vostre trasmissioni, che sarà pubblicato un manuale, un libro di ricette fatte e proposte dai clochard che vivono alla stazione Termini. Ecco, è molto interessante anche la notizia e non posso sbilanciarmi, si saprà tutto alla fine del 24esimo minuto. Grazie Giacomo, ciao. Grazie a te, ciao. Buona domenica. Chi lo sa, Enza da Latina, buongiorno. Buongiorno. Sentito che bella risposta, Enza. Ti ha spiazzato sta risposta, secondo me, no? Ma no, potrebbe essere, potrebbe perché essere. Una piccola notizia magari fa più rumore delle certo, che vengono urlate. Sai che a noi piacciono quelle. Allora Enza, che cosa vuoi fare però? Un altro indizio o tenti 1.000 euro? Un piccolo indizio ci vorrebbe. Allora scendiamo a 500, eccolo qua. Enza, ti ricordi questa canzone? La canzone la ricordo. Ecco, se ti ricordi chi erano? No. Gli Eagle di Hotel California. Sì, Hotel California, il titolo lo ricordavo, ma il gruppo no. Però era le meglio se non l'avessi chiesto. Cosa sono devo ancora fare? Più confusa. Se vuoi ti do un altro, non so, questo era l'indizio. No, cosa mi dispiace, puoi ridurre ancora. Non si può, più di uno non si può avere l'indizio nuovo. Devi dare una risposta, Enza. Insomma, io se dovessi fermarmi al primo indizio, sì, pensavo a quella, alla notizia di questo personaggio, Genchi, che questa settimana è stato radiato dalla polizia, perché ecco, nella canzone di magari di Baglioni vedeva un po', no, la solitudine, l'abbandono, insomma, sulla strada. Ah, quindi interpretato il testo. Chissà, sentiremo al 24esimo minuto la risposta. Grazie Enza, ciao. Buone cose, anche ciao. Anche a te, grazie. Davvero, Francesca, grazie anche per quello che state scrivendo. Francesca dalla provincia di Brindisi, buongiorno, buona domenica. Buongiorno, Stefano. Eccomi qua. Ecco, sono Francesca. Sì, allora cosa io facciamo? Io voglio provare a dare una risposta. Sì. Forse è un po' azzardata, ma ci voglio provare. Se no, qui... sì, senta, allora, Charlie Chaplin è nato su un carrozzone gitano, è una notizia di questi ultimi giorni, quindi ha fatto un po' notizia il fatto che non si conosceva ancora la sua provenienza, sì, La provenienza della nascita di questo attore. Poi California... con l'America. Certo, va bene, Laura. Potrebbe essere, Francesca, sei stata chiarissima. Grazie, brava. Grazie mille. Ciao. A te. Salve. Mi piace quando andate a scovare le notizie. Laura dalla provincia di Ancona. Eccoci qua. Eccoci Laura, siamo ancora a 500 euro. Stupiscici. Premio. Ecco. cosa vuoi fare? Ma io provo, do una risposta. Probabilmente, vai. Ecco, io penso a Lampedusa come l'isola a cui, ecco, mirano, sognano di arrivare tante persone che probabilmente in questo momento stanno vivendo veramente in difficoltà. Sicuramente. Ecco, quindi la mia idea, più che altro la notizia che fa riferimento, ecco, all'arrivo, all'attracco, certo, di queste barche piene di speranza di queste persone che sicuramente vivono in difficoltà. Una sorta di isola che non c'è, che invece c'è, voglio fare. Dire, perché però insomma. Sì, un'isola che c'è materialmente. Sì. Ma che è quella che della speranza, insomma, esatto, che anche Peter Pan sognava di vedere. Grazie Laura, buona giornata. Bene. Ciao. Anna dalla provincia di Palermo. Sì, pronto. Ciao Anna, buona domenica. Ciao, grazie. Cosa vogliamo fare, secondo te? Ma, senti, anch'io mi sarei orientata su quest'ultima risposta della concorrente precedente. Vuoi un altro indizio o vuoi tentare? Ma sì, tanto lo stesso, voglio tentare. Credo che sia stata messa a disposizione di questi profughi che la California potrebbe avere a che fare con il governatore e che sia stato messo a disposizione in Austria magari l'ospitalità per essere ospitati parecchi tunisini. Il nostro governatore californiano è austriaco. Certo, grazie Anna, e potrebbe anche prego essere, ma come sempre non posso dirtelo, sono al 24esimo minuto e siete particolarmente acuti oggi, bravi. 11.45, aggiornamenti sul traffico, poi torniamo con Lucio da Torino. Un mistero in 24 minuti. Lucio, eccoci qui. Stefano. Eccomi qua, un attimo che ricordo ancora il numero verde, 800 24 00 24, per partecipare. Allora Lucio, che cosa vuoi fare? Siamo ancora a 500 euro. Dunque, io do la risposta. Anche tu? Tanto... Allora aspetta, sì, un attimo, sentiamo i due indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Grazie. Strada facendo, Claudio Baglioni, Hotel California, gli Eagles. Allora, Lucio, la tua risposta. Dunque, ho pensato subito a un personaggio. Oppure, tendenzialmente il personaggio. Però potrebbe essere anche il movimento. Allora, la risposta è questa. Il personaggio è il presidente della Camera come coordinatore di Future Libertà. Sì, certo, Flea. Flea, esatto. Quindi è lui, Fini, non il Fli, ma Fini. O il Fri, il Fli o Fini? Bravo. Io devo darti la risposta precisa, sì, quindi il personaggio. Gianfranco Fini. Perfetto, grazie sì. Lucio, ciao. Sarebbero prego, ancora ciao. 500 euro per te. Paolo da Parma. Sì, ciao. Ciao Paolo. Ciao. Io vorrei un altro indizio. Va bene, andiamo a 300 euro. È una corsa ad ostacoli che si vince sempre. Il premio siamo noi. Mi senti o no? Mi senti o no? Come ti amo? Mi senti o no? Mi senti o no? Come ti voglio? Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Alex Baroni, ci manca la tua voce. La vita è un dado, questo era il terzo indizio. Qualcuno l'avrà confuso con Succhiando l'uva di Mina, ma lì c'è una diatriba. La canzone è questa, si intitola La vita è un dado. Allora, Paolo. Ma deviato da tutto quello che pensavo questa. Io comunque dico... All'Aquila ci sono stati dei cartelli, sì, Italia unita, Bazzano diviso, perché c'è stata una diatriba tra il comune di Bazzano sulla strada e sono apparsi questi cartelli all'Aquila. Grazie Paolo, buona domenica. Va bene, grazie. Ciao, grazie. Claudio, dalla provincia di Brescia. Sì. Eccoci. Era un po' che non partecipavo perché mi ero più comodo con la radio dopo, comunque è sempre una bella trasmissione, ma non ho... non ho idea di cosa può essere. O strada facendo, ma la butto lì, anche perché non ho seguito molto la cronaca. Vuoi risentire i tre indizi? No, ma li ho già sentiti per radio. Così. Guarda, ti do un aiuto. Posso? Sì. No, mi sto domandando se posso. Siamo a 300 euro. Guarda, non è così importante che tu abbia letto meno i giornali. Ah, ho capito. Ma la butto lì, dai. Dico, non so, il fatto che noi italiani abbiamo fatto tante cose, delle strade in Libia, delle costruzioni, ecco, così. Mi viene in mente così. Non butto lì notizia riguardo la Libia. Il fatto che il palazzo presidenziale sia stato costruito dagli italiani, ecco, negli anni 30, mi sembra, ecco, quando. Quindi questa è la tua risposta, quindi. Sì, sì, sì, sì, grazie, sì, grazie Claudio. Ciao. Grazie davvero, ciao. Andrea da Roma. Buongiorno. Ciao Andrea. Buona domenica. Grazie anche a te. Allora, tre indizi, guarda che adesso sul piatto c'è tutto, Ma pensarci io sui primi due pensavo già di avere l'idea, però non lo so, la butto lì. Il terzo non è che me la confermi, però. Ho pensato con l'hotel più che con la canzone, quindi Hotel California, alla notizia di questi giorni che riguarda la mia città, che per la beatificazione del Papa si troveranno prezzi altissimi agli alberghi. E Nesso con Baglioni, forse perché Baglioni fece, mi sembra, lui è romano, voglio dire, tra l'altro, sì, esatto. Più romano di Baglioni. L'aumento degli prezzi degli alberghi per il primo. È una bella notizia, no? Ti pare? Siamo a posto. Così aumentano anche quelli, come tutto del resto. Grazie Andrea. Ciao. Grazie. Buona domenica. Siamo ancora a 300 euro. Siete parchi oggi. Monica da Piacenza. Hai la radio troppo alta, dovresti spegnerla. Sì, grazie. Abbiamo Monica. Spento. Ciao. Grazie Monica. Allora, ciao. Abbiamo pochi minuti. Ormai sono proprio gli sgoccioli. Cosa vuoi fare? Ancora un indizio? Ostrega. Non ho idea. No, è perché non so quanto tempo abbiamo. Tutto allora, qua. Vado? Abbiamo un minuto e mezzo. Qualcosa. No, ti diamo l'altro indizio. Differenza tra pietra e le voglie di un uomo che ha per vita una gabbia liberata dal sesso, ma gonfia di verità, partorita con gioia nel lontano ricordo, con le doglie sincere di una maternità che alla luce di notte nella piazza con rabbia donato confusa al suo figlio all'orto. Per me è la più bella canzone che abbia mai scritto Alberto Fortis e si intitola Il Duomo di Notte. Non so proprio cosa dire, butto lì una, la notte degli Oscar. Che ci siamo ormai, no? Eccola qua. Monica, resta con me, va, visto che è scaduto il tempo e vogliamo con te di dare la risposta giusta che non è arrivata. Allora, strada facendo ti vengono in mente le strade, giusto? Certo. Poi gli hotel California ti vengono in mente che cosa? Gli? Eagles. Gli hotel. No. Gli hotel. Ok, gli hotel e le strade. Ti ricordi che c'era una cosa che aveva sulle strade i vari hotel, giocavi con i dadi? Monopoli. Eccolo là, quella era la risposta. Il Duomo di Notte, perché la prima versione del Monopoli italiana aveva tutte vie di Milano. Tutte le vie sono vie di Milano e in questi giorni, proprio per celebrare il 150esimo anno d'Italia, c'è il Monopoli che sta girando per le città italiane, si chiama Monopoli on Tour perché esce un'edizione speciale con le città italiane. Al posto delle vie ci sono le città, tant'è vero che avevano fatto un concorso chiedendo di votare quale fosse la città che non avrebbe mai potuto mancare sul tabellone. E quindi si è anche parlato molto di questo perché i sindaci si sono prodigati perché la gente votasse e in questi giorni proprio la scatola è stata presentata ed è in tour per l'Italia. Era il Monopoli, quindi una cosa che è la notizia che l'accompagnava e quindi una cosa che tutti avevamo davvero sotto mano. Mi dispiace, Monica, certo che una volta avuto la risposta, è tutto più facile, no? Certo. Ecco. Buona domenica e grazie, ciao. Grazie a tutti, davvero grazie a quello che avete scritto, grazie a Giorgio De Luca in redazione come sempre, all'assistenza di Margherita Aina, che saluto in modo molto cordiale oggi, c'è un motivo, lei lo sa, e Paolo Corleoni che è stato in regia. Grazie a voi ascoltatori, ci sentiamo domenica prossima, quindi ancora buon fine settimana da Stefano Gallarini.